La prima cosa che colpisce lo sguardo, quando stando attento non dici niente al riguardo. Lo specchio riflette lasciando il vapore caldo, e pensi se smette non cadrò per terra salvo. Niente importa quando ripensi a quel profumo, ma nessuno lo riporta indietro se odorando lo consumo. Lo rinchiudo in bocce di vetro, in segreto, grande come un feto, mortale come il cianuro. Di sicuro io l'ammetto, non sono il tipo perfetto, hai sbagliato se cercavi il duro. Io sono il concreto referto dell'insicuro lamento, in continuo aumento nel corpo del mio qualcuno. Giocando con le persone è una partita a scacchi, le regine salvati da popoli condannati, ai tempi nostri sacrificati gli emarginati. Lo dice sfogo, il legato dei rinnegati, libera pensieri gelati con cui si assidera ogni momento alla sua clessidra, anche se non lo si considera. Il killer ride mentre si ossigena, noi siamo vivi vittime della follia omicida. Libera pensieri gelati con cui si assidera ogni momento alla sua clessidra, anche se non lo si considera. Il killer ride mentre si ossigena, noi siamo vittime della follia omicida. Lei lascia il rossetto nel posto meno sospetto, ci guardiamo mentre beve un sorbetto distesa sopra il mio letto, ridendo e scherzando, pensando al tempo che sta passando, degusto un altro amaretto mentre la sto lasciando. Conseguenza carenza d'affetto, pochi giorni ho capito stavo sbagliando, la cerco come un amuleto, tanto stava già cambiandomi, ripeto intanto mentre mi stavo cambiando, mi pongo, la cerco e sarò schietto, la trovo col mio amico a braccetto, penso ora li ammazzo prima ira di getto, ma so che avevo passato la fila e ora ho perso il biglietto, torno a casa, lascio le scarpe sopra il tappeto. In questi casi le occasioni sono come i coriandoli, capisci lo spreco solo buttandoli, quindi il concetto è che sfidandoli capirei il momento in cui accetto che vivrei emulandoli. Libera pensieri gelati con cui si assidera ogni momento alla sua clessidra, anche se non lo si considera. Il killer ride mentre si ossigena, noi siamo vittime della follia omicida. Libera pensieri gelati con cui si assidera ogni momento alla sua clessidra, anche se non lo si considera. Il killer ride mentre si ossigena, noi siamo vittime della follia omicida. Non ti dà la seconda parola che dici, la prima serve ma per vedere dove ti spinge. La rima ti dice dove comincia, perdi gli amici in fila secondo dove finisci e come continua. Tralascio la faccia, consumo un'altra risma, lascio passioni su multitraccia, il mio corpo su un cataclisma. Dentro di me non c'è traccia, ho sembianze da prisma e suono di chisma, vi traccia perché la mia rabbia è da sisma. È questa che voglio, solo la calma prima della tempesta, e si cerca rima in testa e sul foglio, è l'aria di festa che odio. Io ho capito che la vita è uno scoglio, se vivo ritorno all'orchestra. Non sono solo passioni, come non sono solo canzoni, io vivo in base a tali funzioni. E smetterò quando non avrò più argomentazioni e le passioni diventate compassioni. Libera pensieri gelati con cui si assidera ogni momento alla sua clessidra, anche se non lo si considera. Il killer ride mentre si ossigena, noi siamo vittime della follia omicida. Libera pensieri gelati con cui si assidera ogni momento alla sua clessidra, anche se non lo si considera. Il killer ride mentre si ossigena, noi siamo vittime della follia omicida. Libera pensieri gelati con cui si assidera ogni momento alla sua clessidra, anche se non lo si considera. Il killer ride mentre si ossigena, noi siamo vittime della follia omicida. Libera pensieri gelati con cui si assidera ogni momento alla sua clessidra, anche se non lo si considera. Il killer ride mentre si ossigena, noi siamo vittime della follia omicida.